peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascoltiamo alcuni musicisti che rappresentano quello che può essere considerato una nuova classicità della musica jazz e anche la constatazione che ormai il jazz fa parte del patrimonio culturale, musicale degli Stati Uniti, insomma, dell'America e che ormai può muoversi, prendendo dalle radici del jazz, si può muovere anche in certi ambienti completamente diversi. Naturalmente l'esperienza del rock, ma anche quella della musica del Novecento, tout court. Penso ad esempio alle esperienze di Aaron Copland, alla musica per film, a tutto quell'enorme patrimonio che gli Stati Uniti hanno rappresentato per il Novecento, un po' per le arti in generale, ma nella musica direi in particolare. Queste sono strade ormai diverse, insomma, la storia del jazz per varie fasi ha avuto sia un lungo periodo di musica di intrattenimento, per passare poi a musica d'arte, ma comunque ben riconoscibile con correnti, con stili che si intrecciavano tra di loro, ma nella seconda metà del Novecento, e poi nell'ultima parte del Novecento e per tutti gli anni 2000 gli stili e le tendenze musicali, le competenze musicali si intrecciano presentando un modello culturale che è trasversale a tutti gli stili musicali. Direi che oggi ascoltiamo tre musicisti diversi, molto diversi tra di loro, molte esperienze decisamente diverse, che però hanno, partendo dall'esperienza jazzistica, approdano in territori che sono più trasversali agli stili. Il primo che ascoltiamo è sicuramente il più anziano da un punto di vista anche anagrafico, ma sostanzialmente anche per l'esperienza che ormai ha accumulato nella storia del jazz, è uno dei protagonisti, Anthony Braxton. È stato uno dei protagonisti della fine degli anni 60, per tutti gli anni 70 soprattutto. Poi ha preso anche strade, in alcuni casi di profili più con risultati artistici diciamo inferiori. È una miriade il numero delle composizioni, delle incisioni, delle esperienze che ha fatto Braxton, non soltanto come musicista ma anche per la sua lunga esperienza didattica. E l'anno scorso, insomma qualche mese fa, è uscito una nuova testimonianza, una delle tante peraltro, però a mio avviso decisamente interessante, di una registrazione di due composizioni registrate nel 99 e con una formazione di 10 elementi, intitolata Tented appunto, e i musicisti non sono particolarmente conosciuti, a parte Steve Lehman che lo è sicuramente, ma anche Kevin Norton, insomma comunque un po' l'entourage che ha accompagnato in diverse occasioni Braxton, ma sostanzialmente la parte più interessante è quella dell'intreccio compositivo. È una musica che risente del minimalismo, anche del cool jazz, dell'esperienza del cool jazz e anche della musica contemporanea. Ascoltiamo, sono due brani piuttosto lunghi entrambi, ne ascoltiamo la prima parte del primo brano. (Susurra) Questo era Braxton, il tentetto di Braxton, con le sue geometrie, con una concezione musicale molto sua, ormai ben consolidata, ben riconoscibile peraltro. È una struttura molto solida, geometrica, che si articola poi, si va a dipanare in un'articolazione melodica che appoggia sempre su un tessuto geometrico definito. Questo è un modo di concepire l'espressione musicale di Braxton che si avvicina o si sovrappone direttamente a quello che può essere una delle esperienze della musica contemporanea. Un mondo completamente diverso invece, la prossima che ascoltiamo, Maria Schneider, che parte come un'allieva di Gil Evans negli arrangiamenti, era uno dei musicisti che componevano la parte dell'arrangiamento delle musiche negli anni 70 di Gil Evans, dell'orchestra di Gil Evans. Poi prende una sua strada lavorando anche con molti altri e diventa praticamente verso la fine degli anni 80 una delle realtà orchestrali più importanti del panorama jazzistico, ma sicuramente ormai fa parte a tutto tondo delle esperienze orchestrali più importanti della storia del jazz. Ha una visione di tipo classico che si è spostata progressivamente anche cercando altre strade. Già da tempo, da alcuni anni, che Maria Schneider sta cercando anche delle modalità espressive che si avvicinano alla musica classica più accademica, più consolidata. E quest'ultima produzione, intitolata Winter Morning Walks, è un lavoro orchestrale che la vede in collaborazione con una cantante lirica, importante cantante lirica, la Dawn Upshaw, che è una cantante che ha fatto tutto il suo percorso lirico normale, ha debuttato con Rigoletto di Verdi e ha transitato un po' in tutto il repertorio operistico ottocentesco, ma anche prima, anche Mozart, poi dopo passando anche per esperienze anche precedenti. Negli ultimi 10 anni si è avvicinata maggiormente, ha ricercato insomma maggiormente quelli che erano i compositori contemporanei e americani soprattutto. Le collaborazioni sono diverse, penso per esempio a John Adams, col quale ha lavorato in alcune sue composizioni, ma anche a Pekka Salonen, musicista finlandese che è direttore d'orchestra di straordinaria qualità, devo dire, e poi con diversi altri. Ha conosciuto Maria Schneider anche in occasione di un problema di salute che ha avuto la Dawn Upshaw, e quindi questo lavoro esce anche dall'esperienza di una importante malattia che l'ha vista vincere tutto sommato quello che poteva essere il risultato della salute più importante. Il lavoro è quindi basato su una tessitura orchestrale che risente sicuramente dell'esperienza di Maria Schneider, quindi dell'arrangiamento jazzistico più classico, con quello che può essere anche una visione più di musica contemporanea. Il risultato è decisamente apprezzabile. Il lavoro, le composizioni, i testi, sono di un poeta brasiliano del Novecento e ascoltiamo il brano d'apertura e anche la conclusione di questo lavoro orchestrale ben riuscito.

Questi erano due movimenti, il primo, quello iniziale, poi anche un altro, che rivelano una vena lirica estremamente interessante e ricca da parte di Maria Schneider, della sua scrittura musicale, anche orchestrale. E la cantante era la Dawn Upshaw. Ecco, i musicisti, Maria Schneider ormai da tempo collabora con alcuni dei musicisti che sono anche il punto fermo, diciamo, della sua orchestra, ad esempio primo fra tutti è Frank Kimbrough al pianoforte, ma poi anche Jay Anderson al contrabbasso e Scott Robinson al clarinetto. Questi sono i tre musicisti che fanno parte anche poi di questa formazione orchestrale, quindi si aggiungono a due formazioni orchestrali che sono l'Australian Chamber Orchestra in una prima parte del lavoro e poi si passa alla St. Paul Chamber Orchestra. E quindi questo è un lavoro uscito molto recentemente per l'Artist Share, che è l'etichetta discografica che ha fondato Maria Schneider, che accoglie anche alcuni altri musicisti, suoi allievi o musicisti che lei ritiene promettenti, comunque non certo tra i più conosciuti peraltro. Ecco, un'altra pagina di quello che può essere una classicità ormai dell'esperienza sia jazzistica che dell'esperienza musicale americana del Novecento la può rappresentare anche un allievo. Questo è sicuramente più apparentabile alla musica di Maria Schneider, perché è appunto un allievo di Maria Schneider, che poi si è ormai affrancato ampiamente dalla sua maestra, diciamo, è Darcy James Argou. È un musicista canadese, provenienza canadese anche lui, come anche la Schneider, che però approda a New York ormai da tempo, nasce artisticamente a New York ed è balzato all'attenzione della critica, del pubblico, insomma, avendo un grande successo per il primo lavoro. Lui è un musicista decisamente giovane, una trentina d'anni. Il primo lavoro uscito 3 anni fa è stato quello appunto della Secret Society, questa forma orchestrale, che lo vede come direttore d'orchestra, arrangiatore, compositore. La formazione orchestrale è di musicisti non certamente conosciuti, non hanno neanche un ruolo solistico particolare. La cosa interessante è decisamente la scrittura. In questo ultimo lavoro, che non delude certamente, questo era sicuramente atteso questo secondo lavoro, per vedere se poteva essere confermata l'impressione notevole della sua opera prima, ed è stata una conferma, lo è, viene attualmente appena uscito ed è subito salutato dalla critica americana come un lavoro importante che si prepara a raccogliere i vari premi che possono offrire le varie riviste musicali. E il lavoro è una sorta di suite con una parte narrata ed è intitolata Brooklyn Babylon. È un viaggio attraverso gli stili diversi anche della musica americana. C'è la musica per bande, c'è la musica Dixieland in alcuni momenti, ma sempre un po' letta in modo distorto, in modo, come dire, particolare, in modo proprio. E sicuramente si sentono vari echi dell'esperienza americana, anche classica. Penso per esempio a Aaron Copland, uno dei compositori che possono venire in mente sicuramente ascoltando questo lavoro. Ascoltiamo diversi momenti di questa suite, che è tutta, come dire, collegata, quindi sono frammenti quelli che propongo, che naturalmente possono essere anche, come dire, risentire di tagli abbastanza arbitrari, però è anche per dare un'idea abbastanza ampia di quello che è questa, questa tessitura di arrangiamento molto sofisticato, molto colto da parte di un giovane che evidentemente dimostra di essere molto ben preparato. Thank you. Abbiamo ascoltato alcuni episodi in questa sorta di costruzione di più movimenti della suite Brooklyn Babylon, l'ultima composizione, l'ultimo lavoro di Darcy James Argou con la sua orchestra, la Secret Society. E, come dicevo, un lavoro ben riuscito e di alto livello. Quello che abbiamo ascoltato rappresenta abbastanza bene questo viaggio attraverso la cultura musicale americana, che ormai la generazione di musicisti come Argou evidentemente hanno ormai recepito il linguaggio jazzistico, anche il senso dell'orchestrazione, dell'esperienza delle orchestre del jazz, è ormai un fatto acquisito e può essere declinato anche con sapori che risentono poi di tutta quella che è la storia americana, della musica americana. Ascoltiamo alcuni altri momenti per concludere anche la trasmissione di oggi e avere una visione abbastanza ampia di quello che è questo lavoro interessante. Questo che abbiamo ascoltato sono diversi momenti della suite Brooklyn Babylon, l'ultima composizione, l'ultimo lavoro di D'Arty James Argou, questo giovane musicista che fa ormai riferimento a New York e alla, come dire, alla comunità culturale di New York, proveniente dal Canada, e si sta esprimendo come uno dei talenti più interessanti della composizione per orchestra e della scrittura per formazione orchestrale. Questo appunto era l'ultimo lavoro per oggi abbiamo ascoltato in sostanza quello che sono alcune delle facce, delle espressioni della musica contemporanea, come il jazz si è trasformato in musica contemporanea ad essere e possa essere espresso come dire, una ormai un qualcosa di assunto, di stabilizzato, è un patrimonio ormai imprescindibile per quello che può essere anche l'evoluzione della musica in generale. Abbiamo ascoltato Braxton, Anthony Braxton, veterano della composizione, della scrittura nell'ambito del jazz, dell'avanguardia del jazz, poi Maria Schneider, allieva di Gil Evans, e quindi che rappresenta questa storia della musica jazz, e per ultimo una nuova generazione, il giovane D'Arty James Argou. Questo è tutto, vi ricordo che la trasmissione la potete riascoltare o trovare anche le indicazioni nel nostro sito, potete ascoltarla in podcast e vedere le indicazioni discografiche sul nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione musica. Salve a tutti e alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.